perfetto giorno. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio. Domani tornerà con voi Simone Spezia. Le notizie di oggi: incendio nell'impianto di smaltimento rifiuti, allarme a Mortara, nel Pavese c'è il rischio diossina. Parleremo anche di migranti, perché la Corte Europea ha respinto i ricorsi contro la relocation per Bruxelles. È tempo di solidarietà, è una buona notizia per l'Italia. Corea del Nord, Putin torna a mettere in guardia, non si può mettere all'angolo la Corea del Nord. Trump che abolisce il programma Dreamers, le proteste che si stanno svolgendo negli Stati Uniti, parleremo anche dell'uragano Irma che è arrivato nei Caraibi, è violento quanto e più di Harvey. Torneremo sui vaccini, parleremo di scuola e delle mense scolastiche, poi torneremo anche a parlare di calcio, della vittoria dell'Italia che però insomma deve scontare anche i fischi dei tifosi. Tanti temi dunque per la puntata di oggi di Effetto Giorno. Ancora una buona giornata da me, da Anna Rita D'Ambrosio, e ringrazio subito Valentina Ternullo e Stefano Sfondrini in redazione e regia, Valeria Bernardi. Noi quattro vi accompagneremo per un'ora, partendo da quanto è accaduto a Mortara nel Pavese. Parliamo dell'incendio alla RD Bertè. Il prefetto di Pavia ha lanciato l'allarme, pericolo di diossina, ha detto. Le fiamme sono partite da uno dei capannoni della ditta che si occupa di stoccaggio di metalli e rifiuti speciali. Noi partiamo da qui collegandoci con Angela Alberici, che è la direttrice del Dipartimento ARPA di Pavia e Lodi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dottoressa Alberici, qual è la situazione al momento? Il fumo è visibile in un raggio di 15 chilometri. Ovviamente tutti coloro che abitano in zona sono stati ampiamente preallertati. È successo all'alba? Sì, è presto nella mattina, sì. Noi siamo stati attivati direttamente dalla ATS di Pavia e siamo sul posto, è ancora la fase emergenziale, quindi non tutto è chiaro, non tutto è già definito, nel senso che si sta vedendo che cosa succede. Ecco, però le parole del prefetto mi sembrano abbastanza insomma inequivocabili, pericolo di diossina. Sicuramente, perché la quantità di rifiuti che sta bruciando è molto elevata e sono rifiuti il più eterogeneo possibile, si va dal materasso fino alla plastica, fino alle gomme, e quindi sicuramente ci sarà un po' di diossina in giro. Quanto, vedremo le nostre analisi, quanto diranno ovviamente nei prossimi giorni. Le rassicurazioni, poi la lascio al suo lavoro, sono sempre le stesse: tenere chiuse porte e finestre, beh, cercare di uscire. C'è una fase in questo momento emergenziale, quindi i sindaci penso abbiano emesso ordinanze per stare al chiuso, che è la cosa migliore, e poi fino a che non si sa quanta diossina può essere andata in giro, quante sostanze possono essere andate in giro, ovviamente il consumo dei vegetali da foglia nell'orto, così che sono da evitare o da lavare con estrema cura. Grazie ad Angela Alberici, direttrice del Dipartimento ARPA di Pavia e Lodi, per questo aggiornamento. L'altro tema in primo piano, l'avete sentito nei titoli, sono i migranti da Bruxelles. Buone notizie per l'Italia. Slovacchia e Ungheria dovranno prendere dei profughi che ora vivono in Italia. Lo dice una sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha respinto i ricorsi dei due paesi contro le relocation dei richiedenti asilo. Nella sentenza i giudici spiegano che il meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a far sì che la Grecia e l'Italia possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015. Siamo soddisfatti, la solidarietà non è a senso unico, ha detto il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Ora, ha aggiunto, bisogna andare avanti con i ricollocamenti e con le procedure di infrazione avviate. Dall'Italia, come si capisce dal sito del Viminale, finora sono stati ricollocati in altri paesi in Europa 8.200 profughi, di cui ben 3.200 sono andati in Germania, nessuno in Slovacchia, in Ungheria, in Polonia e nella Repubblica Ceca, perché questi quattro paesi si sono opposti. Altre 2.000 richieste al momento sono in stand-by, circa 2.500 sono gli altri potenziali beneficiari. Il problema attuale dell'Italia è che fra i migranti accolti ci sono pochi potenziali ricollocamenti e molti migranti economici. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di migranti, figli di migranti nel mirino negli Stati Uniti, alle prese, lo saprete, con le proteste contro la decisione di Trump di eliminare le tutele dei Dreamers, che sono i figli degli immigrati illegali che però sono cresciuti negli Stati Uniti. Si tratta di circa 800.000 persone. Are we a nation that kicks out a striving, hopeful immigrant like Astrid? Introdotto nel 2012 dall'amministrazione Obama, il DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, si poneva un obiettivo principale: garantire uno stato temporaneo di immigrato legale ai figli degli immigrati giunti negli Stati Uniti senza documentazione. Per poter accedere al programma era necessario essere approdati in America prima dei 16 anni e avervi risieduto ininterrottamente dal 2007. Oltre 787.000 giovani hanno beneficiato del DACA, trasformandosi in una categoria che i media hanno etichettato come Dreamers, portatori di quel sogno americano che aveva già contagiato generazioni prima di loro. Tre quarti dei Dreamers sono messicani, presenti in grandi quantità anche salvadoregni, guatemaltechi e originari dell'Honduras. Per la maggior parte risiedono in California, oltre 200.000, 121.000 in Texas, 42.000 nell'Illinois e nello stato di New York. Secondo il think tank Center for American Progress, lo smantellamento del DACA metterà a rischio 700.000 posti di lavoro ricoperti dai Dreamers nei prossimi due anni, numeri che si tradurrebbero in una perdita secca per il PIL pari a 460 miliardi di dollari. Anche per questo il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e 300 altri manager statunitensi avevano inviato una lettera aperta alla Casa Bianca portando cifre e dati a sostegno del DACA, un appello finito nel cestino di Donald Trump. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero perché poi ci sono sempre rapporti tesi tra Stati Uniti e la Corea del Nord. Oggi è tornato a parlare anche Putin. Le minacce di Trump di scatenare fuoco e fiamme non fanno che confermarci che l'arma nucleare ci è necessaria, afferma il Ministero degli Esteri nordcoreano. Risponderemo a modo nostro, ma la colpa sarà loro. Mangeranno l'erba, ma non lasceranno il programma nucleare, ha commentato poi il presidente russo Putin, lasciando perdere i diplomatismi. Non riconosciamo lo status di potenza nucleare alla Corea del Nord, anzi, ha detto poi Putin in conferenza stampa con il presidente sudcoreano Moon al forum economico di Vladivostok. Ma la situazione non si risolve con la guerra né l'isolamento e quindi no al taglio dell'export di petrolio, che gli aveva appena chiesto Moon, tra l'altro, e il rilancio della collaborazione con Pyongyang per ricostruire fiducia e collaborazione. E su questo punto Moon concorda. Cercheremo, dice, di far ripartire i progetti in stand-by, che vanno dalle forniture di gas alle reti elettriche e ai sistemi ferroviari. A Vladivostok oggi c'è anche il premier giapponese Shinzo Abe. Tokyo ha rivisto al rialzo la potenza dell'ultimo test nucleare nordcoreano. Sarebbe stato di 10 volte superiore a Hiroshima. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E negli Stati Uniti restiamo per parlare dell'uragano Irma. È diretto verso nord-ovest, verso le Isole Vergini e Porto Rico. Si sta intensificando e minaccia la Florida e le Keys. Ne parleremo nella seconda parte di Effetto Giorno. In Italia, per parlare di lavoro, a gennaio parte lo sconto a chi assume giovani. Ieri l'incontro tra governo e sindacati lo ha confermato come permanente. La misura da inserire nella legge di bilancio alle porte prevede contributi dimezzati alle imprese che assumono giovani. Non è una manovra spot, le novità sono ad ampio raggio, dice Maurizio Del Conte, direttore dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che al microfono della nostra Anna Marino ha annunciato anche il prossimo passo, che potrebbe essere la riforma del cuneo fiscale. Sentiamo. Tre cose. Il primo, certamente, questo taglio del costo del lavoro sui giovani, una decontribuzione forte del 50% per i primi tre anni e per sempre. Quindi non una manovra che possa creare qualche bolla speculativa, ma una manovra strutturale che renderà l'assunzione a tempo indeterminato dei giovani sempre più conveniente. Il secondo punto, un anticipo dell'assegno di ricollocazione, la presa in carico dei lavoratori su base volontaria attraverso un accordo sindacale che vogliano intraprendere un percorso di attivazione già in cassa integrazione guadagni straordinaria. Terzo punto, la messa a regime dell'assegno di ricollocazione dopo una verifica sugli esiti della sperimentazione. Quanto costeranno allo Stato? Il taglio strutturale dovrebbe costare all'inizio circa 1 miliardo per arrivare a 2 miliardi a regime. Quali sono i prossimi step? Fissare definitivamente quale sarà l'età sotto la quale varranno questi sgravi. A settembre dovremmo riuscire a chiudere il confronto con sindacati e anche con le regioni per poi arrivare in fase operativa per la legge di bilancio. È realistico l'obiettivo di 300.000 nuovi posti nel 2018? Si poteva fare di più? Io credo che se si si arrivasse a 300.000 nuovi posti per i giovani sarebbe un grandissimo risultato. È una strada anche del governo quella di perseguire una riforma del cuneo fiscale? Si comincia da una riduzione per i giovani, credo che l'obiettivo sia poi quello anche di arrivare a una riduzione generalizzata. Ryanair presenterà un'offerta vincolante per l'acquisto di Alitalia entro la scadenza del 2 ottobre, ma solo sull'asset che riguarda il lungo raggio. L'annuncio è arrivato oggi dalla D di Ryanair, Michael O'Leary, in una conferenza stampa all'aeroporto di Bologna. Oggi si parla anche di mense scolastiche, poco prima dell'avvio dell'anno scolastico. È un servizio del quale molti alunni non possono usufruire. La conferma è arrivata dal quarto rapporto di Save the Children, Non tutti a mensa 2017. Approfondiremo anche questo tema oggi, tra poco. Intanto torniamo a parlare del caso della bambina di 4 anni morta di malaria a Brescia. Indaga per omicidio colposo contro ignoti la procura di Trento. L'inchiesta punta ad accertare se siano stati seguiti i protocolli prescritti per le cure per ricostruire con precisione le tappe cliniche della vicenda. E poi c'è il dibattito sui vaccini che prosegue, dibattito al quale questa settimana, lo ricordiamo, dedichiamo il nostro viaggio di approfondimento a chiusura del GR delle 7. Venerdì, poi vi ricordo, ci sarà un'ampia pagina proprio ad effetto giorno con le risposte a tutte le domande e i dubbi che solleverete e che vi invitiamo a porci, come in tanti già stanno facendo in questi giorni. Vi risponderemo in effetto giorno e in effetto notte a partire dalle 21. Intanto sentiamo quali sono le novità oggi nel dibattito. Scontro a colpi di ricorsi tra Veneto e Governo, quest'ultimo pronta ad impugnare il decreto con cui questa regione introduce una moratoria fino al 2019 per presentare la documentazione di avvenuta vaccinazione dei bambini per l'iscrizione a nidi e scuole dell'infanzia. In sostanza i piccoli potranno frequentare anche se sprovvisti della profilassi necessaria. Nessuna violazione, ribadisce il governatore Luca Zaia, il quale sostiene come una deroga biennale sia prevista dalla legge stessa. Dimostrino l'errore, dice. Nessuna contraddizione, la legge è chiara, ribadiscono invece il Ministero della Salute e Istruzione in una lettera inviata ieri sera al governatore in cui avvertono che se la regione dovesse andare avanti con il suo atto amministrativo sarà fuori legge, ma se anche sceglierà la strada legittima dell'impugnazione nel frattempo sarà tenuta ad applicare la normativa esistente. E intanto la Lombardia ha deciso niente proroga di 40 giorni per i bimbi degli asili non vaccinati che saranno invece allontanati come prevede la legge. Le famiglie potranno però accedere ad un percorso formale di recupero dell'inadempimento che in 40 giorni consentirà loro di mettersi in regola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il premier Gentiloni è in Abruzzo, nelle zone colpite dal terremoto, per l'inaugurazione di una scuola dell'infanzia. Ha assicurato che l'impegno del governo è totale e che c'è bisogno di certezze per la ricostruzione. Il calcio, lo avete sentito nei titoli, con l'Italia in cammino verso i mondiali, vittoria risicata ieri con Israele e soprattutto fischi dei tifosi, ma ne parleremo anche di questo più tardi con il nostro Carlo Genta. In chiusura andiamo alla mostra del cinema di Venezia con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta, Napoli protagonista, lo possiamo dire? Lo so che sei molto contenta di questa narita. Risate e applausi. La prima proiezione stampa di Amore e Malavita dei Manetti Bros in concorso oggi qui a Venezia 74. È un musical ambientato nella Napoli di una faida di camorra con Carlo Buccirosso, boss, e Giampaolo Morelli, una sorta di 007. Brave anche le protagoniste Serena Rossi e Claudia Gerini, ottime le musiche e le coreografie che sono curiosità firmate Luca Tomassini. In due giorni è il secondo musical napoletano molto applaudito, ieri ne abbiamo parlato, è stato il turno di Gatta a Cenerentola, un gioiellino di animazione, e poi però c'è mostra in tutte le sezioni. Nelle giornate degli autori un film di segno molto diverso, L'equilibrio di Vincenzo Marra, tra terra dei fuochi, pedofilia, camorra, un sacerdote che arriva nella periferia della città e dovrà prendere scelte molto delicate per non turbare appunto l'equilibrio che garantisce la pace della zona. Un film basato su storie vere, ce l'ha raccontato così il regista. Pensavo che questo poteva essere il sesto capitolo di film documentario dedicato a Napoli e ho fatto uno studio, ho incontrato i preti, ho battuto tutta la periferia di Napoli. La possibilità di fare questo documentario è tramontata. È tramontata per motivi di ostilità rispetto al luogo che io ho scelto. E quindi sono uno che ha la testa dura e ho trasformato in rapidamente tutto quel bagaglio di esperienza che avevo fatto e avevo trovato per farne un film di finzione. Non solo Napoli, oggi a Venezia anche il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem, che ancora una volta un altro film racconta la storia di Pablo Escobar. Ormai è raccontato in tutte le fasi al cinema e in TV, e per ora da Venezia è tutto. Grazie, grazie alla nostra Marta Cagnola. Adesso noi ci fermiamo per aggiornarci sulle strade. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Effetto giorno. Sono le 13 quasi e 17 minuti, le notizie principali di oggi: incendio nell'impianto di smaltimento rifiuti, allarme a Mortara nel Pavese, c'è rischio diossina, lo ha confermato anche un nostro ospite nella prima parte di Effetto Giorno. Migranti, la Corte Europea ha respinto ricorsi contro la relocation per Bruxelles, è il tempo di solidarietà. Corea del Nord, Putin torna a mettere in guardia, non si può mettere all'angolo Pyongyang. Trump abolisce il programma Dreamers, proteste negli Stati Uniti. Uragano Irma nei Caraibi è più violento di Harvey, che ha devastato il Texas. Parleremo anche di questo in questa seconda parte di Effetto Giorno. Partiamo però con un approfondimento del quale avevamo parlato prima, e cioè quello relativo alle scuole, ad un rapporto, il quarto di Save the Children, relativo alla vicenda delle mense scolastiche. Quasi un alunno su due non ha accesso alla mensa e un comune su quattro non prevede esenzione. Per approfondire questo tema la ringrazio. Abbiamo Raffaella Milano in collegamento con noi di Save the Children. Salve. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, il dato, possiamo dire, insomma, lei è il direttore, la direttrice di programmi Italia ed Europa di Save the Children. Il dato è noto, però, insomma, quell'approfondimento che avete fatto oggi in questo quarto rapporto è abbastanza pesante. In otto regioni la situazione è molto allarmante. Sì, è così, ed è un dato che va letto anche alla luce di un altro dato che riguarda la povertà minorile nel nostro paese. Noi dobbiamo ricordare che abbiamo in Italia 1.300.000 minori che sono in condizioni di povertà assoluta, e i dati Istat ci dicono che il 5% dei bambini e degli adolescenti non ha la possibilità di fare un pasto proteico adeguato ogni giorno. Quindi la mensa scolastica ha senz'altro una funzione educativa, una funzione di socialità, ma è anche un forte argine al problema della povertà alimentare, che purtroppo esiste anche nel nostro paese. Quindi i dati sono davvero preoccupanti. Questa dunque la situazione, ma in quattro ci sono delle situazioni particolari, per esempio sulle classi senza tempo pieno. C'è un paese, sì, in Italia spaccata in due. È così, assolutamente così. Se vediamo i dati di questo nostro rapporto, che è disponibile sul sito internet, si vede benissimo che le regioni dove c'è la maggiore mancanza di mense scolastiche, che sono la Sicilia, la Puglia, il Molise, la Campania e la Calabria, cioè tutto il sud Italia, sono anche le stesse regioni dove c'è meno tempo pieno e dove peraltro i dati ci dicono la dispersione scolastica è la più alta. Quindi è come un circolo vizioso, sostanzialmente non si investe in queste reti educative proprio in quelle regioni italiane dove anche il successo scolastico è più compromesso. La mensa dovrebbe fare parte di una rete di offerta educativa. In realtà oggi come poi dovrebbe anche aiutare le famiglie, insomma, dove lavorano. Dovrebbe aiutare le famiglie, dovrebbe aiutare soprattutto le donne che lavorano. Che lavorano, certo. Sostanzialmente oggi come oggi è tutto lasciato nelle mani del singolo comune. Quindi capita, che ne so, che un comune va in dissesto finanziario e blocca completamente le mense, oppure un comune decide di mettere una retta molto alta e non accettare esenzioni per i casi, diciamo, sociali più difficili, il comune accanto magari ha tutt'altre regole. Quindi è davvero completamente disforme la rete delle mense scolastiche in Italia, e questo purtroppo poi danneggia proprio sicuramente i bambini in condizioni di maggiore fragilità. Arriviamo a questi casi che sono andati anche sulla stampa, di bambini che restano fuori dal tornello della mensa scolastica perché magari i genitori non hanno pagato in tempo la retta, no? E poi vogliamo dire che appunto su un bambino incide tantissimo il fatto che loro restano fuori e gli altri invece hanno la mensa. No, insomma, è una cosa terribile. Allora noi sicuramente, se c'è una morosità di una famiglia, ci sono altri modi, infatti altri comuni si rivalgono sulla famiglia in altri modi, però certamente non eliminando la possibilità per un bambino o creando un'area separata o lasciando il bambino in classe mentre i suoi compagni di scuola, insomma, mangiano il pasto insieme. Sono cose che hanno un impatto notevole, drammatico. Cioè. E proprio in termini anche di agevolazione di tariffe applicate, il vostro rapporto ha dei dati molto interessanti, perché un quarto dei comuni non prevede l'esenzione totale del pagamento della retta, né per reddito né per composizione del nucleo familiare né per motivi di carattere sociale, in un paese in cui si dice che si combatte contro la povertà? Sì, ci sono veramente delle discriminazioni incredibili che vanno anche su quanto del costo della mensa viene caricato sulle famiglie. Ci sono alcuni comuni che in pratica con le risorse del bilancio coprono una componente di questo pasto, di questo costo, e quindi le famiglie contribuiscono, diciamo, complessivamente sul 30-35% del costo, altri comuni dove invece il 100% è solo coperto dalle famiglie. Arriviamo al paradosso che la tariffa diciamo minima di Rimini è di 6 euro, che corrisponde al triplo della tariffa massima di Catania, quindi è davvero un'Italia, un patchwork, ecco, di regole e di sistemi anche di finanziamento diversi, e invece si tratta di un servizio educativo che a nostro avviso dovrebbe far parte della serie dei servizi educativi che una scuola propone, perché comunque il tempo della mensa è un tempo che fa educazione nel bene e nel male, quindi è un tempo che è molto importante per la vita di ogni bambino. Grazie a Raffaella Milano di Save the Children, direttrice di programmi Italia ed Europa. Il quadro, lo avete sentito, è abbastanza desolante. Adesso parliamo, come ci siamo già detti, però di clima. Non parliamo dell'Italia. Non parliamo dell'Italia, ma parliamo della situazione oltreoceano, che incide poi in qualche modo anche sulla borsa. Poi quando ci collegheremo con la borsa parleremo anche di questo, perché parliamo dell'uragano Irma. Pensate che la rotta del volo che oggi ha portato Papa Francesco in Colombia è stata deviata prima della partenza, è stato spostato il tragitto più a sud proprio per evitare questo uragano. Uragano che arriva dopo le devastazioni di Harvey e che in qualche modo incomincia a preoccuparci. Certo, noi siamo lontanissimi, insomma, ci preoccupa per parlare però del clima in generale. Io ringrazio l'ospite che è con noi, la ricercatrice dell'Istituto di Biometeorologia di Firenze, Marina Baldi. Salve. Buongiorno a voi. Allora, parliamo tanto di clima. Io sono rientrata da poco dagli Stati Uniti, gli americani sono ossessionati dal clima, hanno addirittura dei canali televisivi, insomma, vista la vastità e le problematiche che hanno, sono giustificabili, ma anche noi oltreoceano abbiamo qualche motivo di preoccupazione quando sentiamo parlare di tutti questi uragani, delle devastazioni di Irma, di quelle che delle devastazioni di Harvey, di quelle che potrebbero arrivare da Irma, e addirittura si è già formato una nuova tempesta tropicale. Sì, questo siamo nel periodo delle tempeste tropicali e degli uragani, quindi c'è da aspettarsi che questi non siano i soli e gli ultimi. E il periodo va da giugno, diciamo, da metà giugno fino a inizio di novembre, quindi abbiamo ancora quasi due mesi in cui è possibile avere degli uragani. La formazione di tempeste tropicali senz'altro, e di qualcuna di queste tempeste che poi si trasforma in uragano. E senz'altro questo di Irma è veramente molto vicino a quello che abbiamo visto la settimana scorsa a Harvey, quindi diciamo che anche se la traiettoria sembra leggermente diversa, quindi non dovrebbe andare a colpire le stesse regioni. E sono comunque dei fenomeni che si formano sempre stabilmente dai 10 ai 12, 14 tempeste importanti all'anno. E quindi, e proprio in questo periodo, quindi diciamo non sono eccezionali. Non sono eccezionali. E quello che succede però è che con i cambiamenti climatici si possono esacerbare poi quelli che sono gli effetti sulla popolazione. E che cosa è successo con Harvey? L'abbiamo visto, è andato a finire in una zona che è una zona da un punto di vista geografico depressa, nel senso che non economicamente ma geograficamente, nel senso che sono zone molto basse rispetto al livello del mare. Con un innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici, certo non facilita, perché vuol dire che la zona che viene interessata può essere maggiore e sicuramente è già sotto l'influenza di grandi ondate che sono esacerbate durante il fenomeno. C'è da dire anche che la parte che ha colpito è una parte densamente popolata, quindi è molto vulnerabile. Sì, tra l'altro, insomma, questa volta Trump si è mosso in tempo, non ha fatto come Harvey, ha già dichiarato lo stato di emergenza, però quella è una zona dove ci sono anche dei turisti, eh? Ci sono anche dei turisti, sì, fra l'altro siamo ancora a inizio di settembre, quindi quella zona lì i turisti ci sono quasi sempre, perché appunto il clima è un clima quasi tropicale, quindi un clima abbastanza caldo e favorevole al turismo. E quindi è importante anche questo fatto, ed è importante anche sapere quanti ce ne sono di questi turisti per eventualmente preparare dei piani di evacuazione, anche perché immagino che volare in queste condizioni non sarà proprio semplice. Assolutamente impossibile. Di solito vengono chiusi gli aeroporti anche per giorni, dipende appunto dalla durata. Adesso stavo guardando proprio in queste ore come si sta spostando questo uragano. Sembrerebbe appunto colpire la parte dei Caraibi, però poi spostarsi più forse verso nord, quindi certo, diciamo, non va a colpire la zona già colpita. Grazie a Marina Baldi per questi approfondimenti relativi al clima. E allora noi, prima di salutarci per la pubblicità, parliamo di calcio. Di fronte a me c'è Carlo Genta, io lo ringrazio. Ringrazio voi. Carlo, noi parliamo di questi fischi, però più che della partita dobbiamo parlare dei fischi. No, io più che dei fischi parlerei del risultato. Alla fine facciamo gli italiani. Il risultato, come ha detto, conta, dici tu, e è basta. L'unica cosa che conta. 1-0 striminzito a Reggio Emilia contro Israele, secondo posto in banca. Va bene. Perfetto, andiamo a fare. Siamo italiani, andiamo a fare gli spareggi per i mondiali dietro la Spagna, e quindi questo è quello che conta. Poi fischi, va bene, lasciano lo spazio che trovano, poi ne parleremo. Non un grande spettacolo, ma alla fine, da italianisti, quello che conta è ciò che sta scritto sul tabellone alla fine della partita: 1-0, Italia batte Israele, immobile. E tu dici, dopo la Spagna ci voleva solo questo? Solo questo, non c'era tanto da fare. Dopo che hai preso quelle sberle, devi fare il risultato e devi salvaguardare il secondo posto che ti porta agli spareggi. Quindi proviamo ad essere una volta tanto razionali oltre che italianisti. Quindi, senti, ma questa ipotesi, questo è ciò che conta. Passiamo il tour, perché sai, poi c'erano state tutte le polemiche, no, Ventura, no. Catastrofi, eccetera. Catastrofe, ma io sono d'accordo con quello che ha detto ieri il presidente federale Tavecchio, che ha detto che non andare ai mondiali sarebbe una sciagura, un cataclismo, una catastrofe, ed è vero per il calcio italiano. Però il secondo posto è quello che ci porta alle porte dei mondiali. Ma forse quello l'Italia col secondo posto parte più carica, dai. Sì, io non sono esperta, tu lo sai. Però, siamo sempre italiani, Anna Rita, quindi quando siamo in situazioni di emergenza diamo il meglio di noi stessi. Dalla decretazione, sappiamo, siamo il paese della decretazione. Tema, noi siamo un paese di emergenza. Poi da lì lo decliniamo anche sul calcio, quindi non c'è problema. L'1-0 con Israele, il fatto è che ci garantisce il secondo posto, e il secondo posto ci garantisce i playoff, che vogliono dire probabilmente mondiali. Poi se non andiamo, meritiamo di non andarci. Grazie a Carlo Genta, ci fermiamo per la pubblicità. Effetto giorno. Incendio nell'impianto di smaltimento rifiuti, allarme a Mortara nel Pavese, ne abbiamo diffusamente parlato, c'è rischio di ossina, è stato confermato, le indagini ovviamente sono in corso. Migranti, la Corte Europea ha respinto i ricorsi contro la relocation, per Bruxelles è tempo di solidarietà, è una buona notizia per l'Italia. Corea del Nord, Putin torna a mettere in guardia, non si può mettere all'angolo Pyongyang, e poi ci sono le polemiche negli Stati Uniti, le proteste dopo che Trump ha abolito il programma Dreamers. Negli Stati Uniti abbiamo parlato anche dell'uragano Irma che minaccia i Caraibi, è più violento di Harvey che ha devastato il Texas. Abbiamo parlato di vaccini, dello scontro tra governo e Veneto con Zaia che dice nessuna violazione, dimostrino l'errore. Abbiamo parlato di scuola, dell'inchiesta, del rapporto di Save the Children, quasi un alunno su due non ha accesso alla mensa e un comune su quattro non prevede esenzione. Proprio poco fa abbiamo parlato con il nostro Carlo Genta invece di calcio, di Italia-Israele finita 1-0, che è quello che conta, diceva Carlo, con un gol di Immobile, azzurri dunque ad un passo dai playoff, ma ci sono stati anche i fischi dei tifosi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Sono le 13 quasi e 38 minuti, eccoci ritrovati, un aggiornamento che arriva dalle agenzie, per la precisione da Barcellona. Nonostante diversi tentativi di ostruzionismo dell'opposizione unionista, il Parlamento catalano ha deciso in un clima elettrico con 72 voti a favore, 60 contrari e 3 astensioni di iniziare l'esame del disegno di legge di convocazione del referendum sull'indipendenza previsto per il 1 ottobre, referendum appunto già previsto ma prima della che ha scosso quest'estate Barcellona. Dunque probabilmente si discuterà, probabilmente questo referendum si farà, avremo modo di discuterne ampiamente nei prossimi giorni. Ora però noi torniamo in Italia perché facciamo un approfondimento specifico, torniamo a Napoli, lo so, poi vi direte quando c'è la D'Ambrosio e tutto Napoli, insomma Napoli ha tante notizie, insomma è una città dai tanti volti e dalle tante occasioni. Parliamo di lavoro, di Napoli e delle tante aziende che operano a Napoli e che da Napoli hanno successo in tutta Italia e non solo. Parliamo di Carpisa, della quale avete sentito parlare tanto negli ultimi giorni per una campagna marketing nella quale si proponeva, chi acquistava una borsa, di partecipare ad un concorso per una collaborazione di un mese in azienda nel settore comunicazione. Ci sono state tante polemiche, le intenzioni dell'azienda ovviamente erano completamente diverse, proprio di quelle vogliamo parlare e lo ringraziamo con l'amministratore delegato di Carpisa che è in collegamento con noi, Gianluigi Cimmino. Salve. Buongiorno, buongiorno, grazie. Allora, torniamo a Napoli. Diciamo innanzitutto una cosa, che il concorso scade oggi, si chiama Vinci uno stage in azienda, termina oggi e al vincitore è offerto un contratto di stage della durata di un mese, dal 6 novembre al 5 dicembre, all'interno dell'ufficio comunicazione della società nell'interporto di Nola, in provincia di Napoli. Il contratto di collaborazione prevede anche una retribuzione. Sì, scade oggi fortunatamente, direi a mezzanotte, prevede una retribuzione simbolica di 500 euro, oltre chiaramente il sostenimento da parte dell'azienda di tutte le spese di vitto e alloggio, quindi questa era la formula. Ecco, come si faceva a partecipare? Perché la polemica poi è stata tutta lì, si acquistava una borsa e poi cosa faceva? Si portava un'idea, no? Si presentava un progetto, diciamo che l'errore è stato sicuramente quello di legare la possibilità di partecipare al concorso all'acquisto di una borsa. C'è anche chi ha avuto il coraggio, mi consenta, di polemizzare sulla presentazione del progetto, cosa che viene normalmente fatta in tutti i case study aziendali. Che poi è un'opportunità, insomma. È un'opportunità. Io stesso all'università lavoravo su progetti che poi magari vedevo realizzati al consumo, quindi vedevo le aziende che poi da questi progetti prendevano gli spunti per la realizzazione dei prodotti. Questa è una cosa che abitualmente si fa, è un'opportunità per il giovane, è un'opportunità per l'azienda di trovare talenti sul mercato. Quindi avete avuto tantissime offerte, poi stasera entro mezzanotte comunicherete il nome del vincitore, però voi vi siete scusati perché insomma le polemiche ci sono state, soprattutto io mi sono web. Scusato anche soprattutto personalmente perché era un argomento che non andava assolutamente trattato con un concorso, è un periodo breve, perché normalmente noi utilizziamo lo stage, oltretutto in percentuale anche ridotta rispetto a quello che consente la legge, ma con un obiettivo sempre di inserimento poi della risorsa nel contesto aziendale, che vuol dire che soltanto negli ultimi 2 anni 50 giovani che sono entrati da noi come stagisti sono poi diventati dei collaboratori a tutti gli effetti dell'azienda. Ecco, perché quindi Carpisa è un colosso, è un'azienda giovane. Ma non siamo un colosso, siamo sicuramente un'azienda giovane. Beh, diffusa in tutto il territorio giovane. Italiano, insomma. Abbiamo una presenza sul territorio italiano importante, perché abbiamo oltre 400 punti vendita in Italia, oltre 600 nel mondo, e con 700 persone che lavorano con noi tutti i giorni, di cui il 40%, sottolineo, sono giovani sotto i 30 anni. Quindi il fatto che questa cosa abbia urtato la suscettibilità dei giovani del mondo del lavoro mi ha dato sinceramente fastidio proprio personale, e per questo ho sentito il bisogno di scusarmi. Se fosse stato possibile ritirare prima il concorso l'avrei fatto, ma esistono dei regolamenti ministeriali che vanno rispettati. È una cosa che commercialmente non ha portato nulla, perché le adesioni sono state pochissime. È chiaro che poi le strumentalizzazioni ci sono state, ma con queste strumentalizzazioni, con questo approccio al mondo del web e del digital, dei social, dobbiamo imparare a convivere. Purtroppo soprattutto sì, noi certo, che facciamo comunicazione, dobbiamo prevedere quelle che sono le reazioni di un mondo che è profondamente cambiato. Possiamo sintetizzare, prima di salutarci e di ringraziarla, così, cioè lei farà ancora un'iniziativa di questo genere, magari con una maggiore attenzione? Io farò sicuramente delle iniziative legate al mondo del lavoro e al mondo dei giovani, con l'obiettivo di portare giovani in azienda e di trovare talenti. Non le legherò mai più a un concorso, perché un concorso è una cosa diversa, e in generale qualunque categoria, qualunque argomento viene trattato oggi in termini di comunicazione va affrontato cercando di prevedere tutte le possibili reazioni, anche quelle diciamo strumentali, perché fanno parte del gioco e quindi vanno affrontate. Grazie a Gianluigi Cimmino, amministratore delegato di Carpisa, per questo chiarimento. Allora, noi abbiamo prima l'aggiornamento sulle strade, poi l'appuntamento con America 24 dedicato alla decisione di Trump di abolire, ne abbiamo già parlato nel nostro GR, la regolarizzazione dei Dreamers, poi torniamo.